voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I never could do that. Thank you. eclettica sulle frequenze di Rock FM con la voce di Giulio Caperdone, che state sentendo e avete la possibilità di sentire tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20. Oltre che alle normali frequenze, che poi hanno la possibilità anche di essere raggiunte tramite il satellite o tramite internet, grazie alla piattaforma di Sky oppure grazie allo streaming, c'è anche il podcasting. Tutti i dettagli li trovate o su myspace.com/eclettica o sul sito della radio, radiorockfm.com, ovviamente preceduto dalla tripla doppia V. Si è chiusa la prima parte con Miss Alex White and the Red Orchestra, l'energia di In the Snow dagli Stati Uniti, e si è aperta questa seconda parte invece con gli Slaranfellan da Copenaghen, che hanno destrutturato, scarnificato, stravolto Paranoid Android dei Radiohead, che ci siamo appena ascoltati. Ora un nome nuovo però per me, ammetto la mia ignoranza, perché ho scoperto che il loro prossimo disco, che uscirà in ottobre per la K Records, è il loro quarto disco e io li scopro solo ora. Fill Up the Room si chiamerà questo album, il nome della formazione, che proviene dal Michigan, è Saturday Looks Good to Me. È una formazione che è composta da 5 membri, che ruota attorno al polistrumentista Fred Thomas, ma oltre a questi 5 membri ce ne sono altri che di tanto in tanto si aggiungono a seconda delle necessità. Ci ascoltiamo questi Saturday Looks Good to Me con il brano, ovviamente estratto dall'album che già ho citato, dal titolo Make a Plan. Every time you make a plan so you can bury your hands in the snow. giorno stavo bighellonando per la città universitaria e Chad e Tim Gray mi dissero che Dean abitava in un appartamento senza acqua calda corrente nell'East Harlem, l'Harlem spagnola. Dean era arrivato a New York la notte precedente per la prima volta con Mary Lou, la sua bella e vivace pollastrella. Erano scesi dall'autobus della Greyhound nella 50ª strada e avevano girato l'angolo in cerca di un posto per mangiare ed erano entrati di filato da Hector. E da allora in poi la rosticceria di Hector era sempre stata per Dean un grande simbolo di New York. Avevano speso parecchi soldi in grossi bellissimi dolci con la ghiaccia e in bombe alla crema. Tutto questo tempo Dean andava dicendo a Mary Lou cose del genere: «Dunque, tesoro, eccoci qua a New York, e anche se non ti ho detto proprio tutto quello che avevo in mente quando attraversammo il Missouri, e specialmente nel momento in cui siamo passati davanti al riformatorio di Bonneville, che mi ricordava il mio problema carcerario, ora è assolutamente necessario posporre tutte quelle cose sorpassate concernenti i nostri personali affari amorosi e cominciare immediatamente a pensare a specifici progetti di vita lavorativa». E così via, nel modo che gli era solito in quei primi tempi. Questo era ancora l'incipit di Sulla strada di Jack Kerouac. Bro. Don't you think I'm very brazen or prey fool or something? I don't think you're any fooler than anybody else. Qualche mese fa, quando uscì il disco degli Swan Lake, per descrivervi la formazione che ne faceva parte, vi avevo parlato dei Destroyer e dei Wolf Parade, che costituiscono in pratica, con alcuni dei loro membri, i due terzi degli Swan Lake. Allora assolutamente non sapevo nulla dei Frog Eyes, che è il terzo mancante. Frog Eyes che invece recentemente abbiamo imparato ad apprezzare con il loro ultimo album, dal quale ci siamo ascoltati la lunga ma anche bella Bushels. Tutto questo subito prima dell'ultimo dei The Coral, che si è appena chiuso qua in Eclettica, che a sua volta si sta apprestando a chiudere. The Coral ascoltati con Who's Gonna Find Me. Si chiude invece con un gruppo passato per la prima volta in Eclettica la settimana scorsa, gli Home Blitz, che sicuramente all'interno del microcosmo di Eclettica passeranno alla storia come la band che si ferma perché il cantante ha bisogno di un chewing gum. Different emotions. gotta get some gum. One second. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 46, volume numero 1, indice, Rogue Wave, The Sleeping Years, Bodies of Water, Dinosaur Jr., The View, Miss Alex White and the Red Orchestra, Slaran Felland, Saturday Looks Good to Me, Frog Eyes, The Coral, Own Blitz. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.